Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti, soprattutto a chi ama il tartufo, perché le notizie che arrivano dai vari mercati sono favorevoli quest'anno. Il costo è sicuramente inferiore, sempre alto, ma inferiore rispetto agli anni passati. Ma ora vedremo quant'è questo prezzo, perché ci collegheremo in diretta con il mercato principale, il mercato di Alba, appunto, dove il tartufo bianco denominato di Alba. Poi ci sono altre piazze, ma andremo a vedere anche quelle sicuramente altrettanto importanti, ma è lì che di solito si fa il prezzo, che poi scende a cascata sul resto dell'Italia. Ricordo, prima di andare appunto in diretta al mercato d'Alba, al numero verde 800 24 00 24 349 238 6666 per chi volesse inviare gli sms. Allora, eccoci al mercato di Alba, al mercato centrale di Alba. Buongiorno a Marco Scuderi, vicepresidente dell'Ente Internazionale Tartufo Bianco d'Alba. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, ci dai l'ultimo prezzo, quello di stamattina, quello al fixing del mercato di Alba? Allora, questa mattina i tartufi sono quotati a un prezzo che oscilla dai 200 ai 220 euro letto per pezzature medie, quindi diciamo un prezzo assolutamente accessibile, un prezzo importante, ma soprattutto collegato anche a una buona qualità del prodotto. Bene, allora ci colleghiamo ora con Acqualagna, altro mercato estremamente importante, da Giancarlo Marini. Buongiorno Marini. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, quanto è il fixing stamattina ad Acqualagna? Io volevo fare una precisazione: quando si parla di mercati importanti, io penso che bisogna parlare immediatamente di Acqualagna, perché secondo l'opinione pubblica il primo mercato mondiale dei tartufi è in Acqualagna. Bene, ora iniziamo subito la polemica. Per quello che riguarda il fixing, io ho sentito parlare di 200-220 euro a letto, mentre in Acqualagna parliamo di 200-220 euro al chilo. Al chilo? Al chilo. 220. Per le pezzature piccoline, non pezzature grandi, pezzature piccole. Ma perché quest'anno ci sono solo pezzature piccole? Ci sono, sia in Acqualagna nascono piccole, medie e grandi. Allora ci dia il prezzo anche delle grandi, ci dia anche il prezzo delle grandi. Quelle grandi intorno ai 1000 euro al chilo. Quindi diciamo che c'è una notevole differenza tra i due mercati. Poi andremo anche in Molise, perché anche il Molise sicuramente non ha niente da invidiare con i mercati piemontesi e quelli marchigiani. Anche il Molise è un grande fornitore. Poi andremo anche in provincia di Bologna, quindi faremo un giro anche in Toscana, quindi un vero e proprio giro dei grandi mercati. Come abbiamo visto, ci sono delle differenze notevoli. Scuderi, come mai queste differenze così notevoli? Ma diciamo che il prezzo, come sanno anche gli ascoltatori, i radioascoltatori, lo fa il mercato. In questo momento abbiamo un prezzo che è notevolmente inferiore al prezzo dello scorso anno, e si è stabilizzato, in questo momento è stabilizzato a questo livello. Direi che noi diciamo che è un prezzo che in questo momento ha un equilibrio tra quella che è la legge della domanda e dell'offerta, e quindi siamo contenti di un sistema che garantisce qualità ad un prezzo che comunque non è ma di sotto di quelle che sono le potenzialità di un prodotto di elevato prestigio e sempre considerato e inserito in una fascia medio-alta di quella che è la situazione gastronomica nazionale e internazionale. Bene, sentiamo un radioascoltatore, Marco dalla provincia di Milano. Buongiorno Marco. Buongiorno, sono Paolini. Si sente molto parlare di quel boccone del gastronauta, che penso sia riferito a lei. Volevo capirne di più. Beh sì, è vero, questa qui è una ricetta che io così mi sono inventato un po' di anni fa, che è una fetta abbrustolita sulla padella di pane con un goccio d'olio sotto, poi sopra, invece di mettere la Nutella, tante fette di tartufo e sopra con due chicchi di sale grosso, perché secondo me il tartufo affogato nei tagliolini, nel riso e in tante altre cose, nella fonduta, perde di sapore. Devo dire che ci sono un paio di ristoranti dove già lo hanno adottato, ce n'è uno in via Rovello a Milano, che appunto nel menù ha il boccone del gastronauta, quindi sicuramente è una curiosità, è una mia così, una mia estrosità che ogni tanto può succedere. Voglio tornare ad Acqualagna. Buongiorno Marini di nuovo. Allora, Marini, c'è molta gente oggi ad Acqualagna? Beh, ancora non siamo in fiera, noi inauguriamo il 31 e 1, poi facciamo le prime due domeniche di novembre. ma sicuramente con questo prezzo che abbiamo in Aquaragna ci aspettiamo qualche milione di persone. Addirittura qualche milione? Nel giro di 6 giorni sicuramente toccheremo il milione di persone. Marini, Scuderi, invece Alba come risponde? Ma noi diciamo che, non so se come dire, il milione di persone è comunque un numero molto molto importante. Noi qui abbiamo superato 50.000 presenze solo all'interno del mercato del tartufo lo scorso weekend, ne aspettiamo circa 100.000 solo all'interno del mercato per questo weekend. Per noi la fiera è nel suo massimo della proposta e il territorio sta ricevendo molto bene il sistema, tutte le strutture sono piene, c'è turismo internazionale da ogni parte del mondo, quindi diciamo che siamo molto contenti, non si sente quello che era un po' il timore della crisi, perché continuiamo a mantenere gli standard qualitativi e numerici degli anni passati, quindi siamo veramente contenti. E siamo anche contenti del fatto che, insomma, è vero che le condizioni climatiche hanno così avvantaggiato la produzione, quindi la discesa del prezzo, ma occorre comunque non andare a sottovalutare un prodotto che comunque ha una sua collocazione importante nel mercato internazionale. Bene, grazie a Scuderi, grazie a Marini. Ora voglio rispondere a Antonio da Sessa Cilento, il quale ci chiede: il tartufo nero specifico del sud Italia, oppure in questo territorio si può trovare anche il bianco? Guardi, caro Antonio, si può trovare il bianco e il nero sia al sud che al nord, quindi sicuramente non c'è una delimitazione territoriale importante su questo. Ci sono alcuni territori ovviamente che sono più vocati di altri per l'uno o per l'altro. Bene, continuiamo questo viaggio. Ora abbiamo parlato, appunto, abbiamo sentito dei fixing, ma io voglio andare anche in provincia di Bologna, perché anche Savigno è un'area vocata per il tartufo bianco, e andiamo in una trattoria che rappresenta un po' il tartufo di quella zona, sia come cucina ma anche come rappresentatività. Andiamo da Alberto Bettini di trattoria da Amerigo. Buongiorno Bettini. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Senta Bettini, ci dà il prezzo del tartufo dalle vostre parti? Ah, dalle nostre parti, essendo metà tra Alba e Aquaragna, siamo proprio a metà, insomma. Quindi in questo momento un bianco di qualità si può pagare dai 600 ai 1200 circa al chilo. Bene, rimanga con noi, perché ora voglio chiedere a Mauro Carbone, direttore del Centro Nazionale Studi sul Tartufo, come mai quest'anno c'è questa grande quantità e la qualità corrisponde a questa grande quantità, visto il prezzo, quindi visto il prezzo, oppure è una questione di crisi economica, quindi c'è minor domanda e di conseguenza il prezzo sta scendendo. Buongiorno a Mauro Carbone, appunto direttore del Centro Nazionale Studi sul Tartufo. Buongiorno Davide, grazie per l'ospitalità in trasmissione. Ma perché costano meno? Sicuramente perché c'è un ottimo prodotto sia a livello qualitativo ma anche quantitativo. Almeno sul territorio piemontese ci sono state le condizioni meteorologiche migliori che si potessero immaginare nell'estate per far nascere tartufi. Quindi è iniziata bene la stagione e ci aspettiamo una continuazione ancora migliore, per cui tanto prodotto. Sicuramente anche forse un po' di calo della domanda dovuta a fattori congiunturali ha favorito la diminuzione del prezzo. Di sicuro abbiamo prezzi molto molto abbordabili e questo fa bene a tutto il mercato. Bene, sentiamo Ilaria da Lucca, una nostra radioascoltatrice. Buongiorno Ilaria. Senta, buongiorno. Noi insomma andiamo spesso quando è il momento a mangiare il tartufo qui a San Miniato. E stamani ho aspettato proprio quest'ora e sono rimasta a casa per ascoltare lei, perché ieri avevo sentito che c'era, appunto, e oggi parlavate di questo tartufo. Ecco, io vorrei un attimino un chiarimento, perché sentivo che ad Asti viene 200 euro, ad Asti, ad Alba 200 euro letto, invece ad Aqualagna, anche lì i pezzi, le tarature insomma maggiori, viene 1000 euro il chilo. Insomma, ci sarebbero 100 euro di differenza. E quindi volevo un chiarimento, no? Perché insomma mi sembra tanto. Questo che anche in Piemonte dicevano che c'è stato insomma un'abbondanza, e quindi non capisco. Questo ha sorpreso molto anche a me, devo dire, sono rimasto molto colpito da questo fatto. Però poi ci collegheremo anche con la Toscana, Ilaria. Se lei aspetta ancora andare a San Miniato, probabilmente le daremo anche qualche notizia dal punto del tartufo in Toscana. Devo dire, sono rimasto molto meravigliato, però appunto c'è questa, diciamo, distinzione che è stata fatta di piccoli, quindi piccoli non so cosa intendeva, di quanti grammi tartufi con tartufi medio-alti. Poi bisogna anche vedere, perché molte volte cioè, anche da trifolao a trifolao ci sono differenze di prezzi, e quindi molte volte magari il mercato alla mattina parte con un prezzo e poi scivola via, però sicuramente è molto molto diverso questo prezzo. Io invito qualche nostro radioascoltatore sicuramente a intervenire, se magari ci dà qualche altro dato su questi tartufi, magari qualcuno che si trova nelle circostanze, nelle vicinanze di Acqualagna oppure nelle vicinanze di Alba in Piemonte, per vedere se queste differenze sono molto così portate nel territorio, oppure se era così un prezzo che Marini come diciamo distributore, come commerciante di tartufo pratica in questo momento. E ho un'altra domanda interessante che rivolgo a Carbone ancora una volta. Quanto ci mette un tartufo a formarsi, Carbone? Beh, ci mette pochi giorni, una settimana più o meno, dopodiché rimane un mese e mezzo molto tranquillo sotto terra senza nessun profumo. All'ultimo momento le sue spore maturano e a quel punto vuole a tutti i costi farsi trovare, per farsi spostare nell'ambiente, e quindi inizia a maturare e a profumare moltissimo. Quindi la sua vita sottoterra dura più o meno un mese e mezzo, di cui qualche giorno per crescere e qualche giorno alla fine per maturare, più un periodo abbastanza lungo in mezzo di pura giacenza sottoterra. Bene, devo dire che ho molti sms intriganti. Quando il ristoratore dicono tagliolini piuttosto che uova al tartufo senza aggiungere altro sulla provenienza, come fare per tutelarci? Bettini, cosa succede? Ci si deve fidare di chi serve quel piatto. Chiaramente il tartufo, come si dice, non ha targa. Un occhio esperto può riconoscere dalla pelle, dalla forma, anche una macro area di provenienza, ma chiaramente quello che fa la differenza è il profumo, e l'importante è che poi sotto il profumo non ci siano i famigerati aromi di sintesi. Ecco, e quindi la fiducia deve essere doppia o tripla in questo caso. Il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Ecco, allora torno da Carbone. Questo secondo me è veramente un rebus molto intrigante che tutti si pongono. Carbone, questo olio di tartufo, ecco, come ci si fa a fidare di questo olio di tartufo? Ma la chimica quanto incide su questi oli che sono in vendita in giro per il mondo? Ma tutti gli oli sono prodotti sostanzialmente non utilizzando profumo che deriva direttamente dal tartufo, sono la replica di alcune delle molecole che ne compongono il profumo. Prima parlavamo di 120 molecole diverse che danno profumo, lì dentro ce ne sono da 1 a 4, 5 qualche volta, quindi è un'imitazione molto parziale di un bouquet molto complesso, un pezzettino di tutto lo spettro aromatico viene replicato con le stesse molecole. È chiaro che in un tartufo vero si comprano più di 100 profumi, in un olio al tartufo se ne comprano 4. Questa è la differenza di prezzo, e spesso sotto le differenze di prezzo ci sono molte spiegazioni. Diciamo che è ottenuto con aromi artificiali, insomma. Sì, ricostruiti in laboratorio, diciamo che le molecole sono uguali, ma sono rifatte da capo in laboratorio, non utilizzando la natura, e comunque sono molte, molte, molte meno dell'originale. Bene, abbiamo tanti sms. Meglio il cane o il maiale per cercare il tartufo? Beh, questo posso rispondere io. Il maiale se lo mangia il tartufo. Un tempo forse erano i maiali, però è meglio non usare un maiale. Ma anche il cane, sì, ci sono dei cani, i famosi laghetti, che sono molto così validi, quello di razza romagnola in particolare. Però in realtà, e qui posso svelare un altro segreto che mi hanno detto molti trifolao, viene usato per distrarre magari chi guarda dove viene raccolto il tartufo, ma in realtà i trifolao sanno benissimo dove si trova il tartufo senza bisogno ormai del cane. Magari i dilettanti sì, che possono utilizzare il cane. E poi ancora mi dicono se si può conservare nella terra madre dove è stato raccolto. E beh, se si conserva nella terra madre bisogna conservarlo nel campo. Mi sembra un po' Mario da Brescia, un po' così, un po' un'idea diciamo un po' bizzarra. Bene, sentiamo un radioascoltatore, Eugenio dalla provincia di Alessandria. Buongiorno Eugenio. Buongiorno, buongiorno. Mi dica. Io ho comprato ieri sera 3 tartufi dal trifolaio, insomma da quello che si va a cercare direttamente, quindi non dal commerciante. Un pezzo da 110 grammi, uno da 54 e uno da 48, belli, rotondi, quindi senza asperità, quindi tutto sfruttabile, 150 euro. Quindi 150 euro, 100 grammi, e allora l'ha pagato... No, tutti, 150 euro, uno da 110, al letto 150, poi c'erano duetti, ma duetti e 10... E quindi erano 300, tanto per capirci. Sì, però stavo pensando che al chilo è 1.400, così tradotto in soldoni, insomma, se 110 grammi sono 150 euro, più o meno andiamo sulla cifra che passa le 1.000 euro. Bene, grazie a Eugenio di questa sua testimonianza. Come vedete, i prezzi sono veramente molto, ma molto diversi, e devo dire che si allontanano molto da quelli dati da Acqualagna. Sentiamo Mario da Milano. Buongiorno Mario. Sono Mario da Milano, sì. Però io sono nato in Basilicata e volevo dire che in Basilicata, sento dei miei amici che vanno a Tartufi, che è una terra abbastanza che ne tira fuori tantissime, e che vengono dei compratori addirittura da Perugia, da Alba a comprarli, che è ancora una piazza ancora poco conosciuta, ma mi dicono che ce ne sono tantissime. Sì, e guardi... Ora, tra la Basilicata, grazie per questa segnalazione, perché guarda caso, come si dice, cade a fagiolo, abbiamo con noi Alberto Ricci, che è patron del ristorante Perticone a San Pietro Avellana, in provincia di Isernia. Siamo in Molise, quindi siamo in Molise, è una regione che forse pochi sanno, che è una regione ricchissima di tartufi, specialmente San Pietro Avellana è un centro importante, che non dico al pari, ma sicuramente come Acqualagna e come Alba. Buongiorno Ricci. Buongiorno a lei. Ricci, ci dà un po' le quotazioni, diciamo, del tartufo dalle sue parti? Allora, le quotazioni al cavatore, cioè colui che ricerca il tartufo, fino alla settimana scorsa sono stati intorno ai 700 euro al chilogrammo, compreso, diciamo, pezzatura buona da 40 grammi in su. Mentre per quanto riguarda lo scarto, cioè quello da 10 ai 40 grammi, è stato intorno a 200-300 euro. Quindi è sceso di qualcosa, è sceso intorno ai 500 euro al chilogrammo, sempre al cavatore, mentre al commerciante si sta vendendo, se uno va nel negozio, intorno a 1.300-1.400 euro al chilo. Solo che la richiesta è molta, cioè la richiesta è poco, mentre la produzione ce n'è parecchia. Quindi il calo del prezzo è dato proprio dal grosso quantitativo immesso nel mercato e dalla comunque poca richiesta fino a questo momento, anche se il prezzo dovrebbe aumentare fra una quindicina di giorni, quando iniziano le sagre, e quindi logicamente, come tutti gli anni, comincia anche a rialzare il prezzo del tartufo. Quindi cominciamo ad avvicinarsi tra i vari mercati, anche a San Pietro Avellana, le piccole pezzature, le definite anche quelle di scarto, a 200, mentre le altre 1.700-1.800, mi sembra di aver capito, con una possibilità di discesa nel tempo, in questi giorni. Poi col tempo bisognerà vedere, perché dipenderà anche dai quantitativi, perché non sappiamo. Soprattutto da quello. Quello e dalla qualità, signor Paolini, perché se la qualità è buona, cioè se il tartufo non è secco, diciamo, è buono da vedere, è buono da tagliare, è profumato, ovviamente il prezzo schizza a molto di più. Non è come quello dell'anno scorso, perché l'anno scorso siamo stati su 2.400-2.500 euro al chilogrammo. Certo, da voi in altre parti addirittura si è passati anche a cifre veramente incredibili. Volevo ricordare il numero verde 800 24 00 24, 349 238 6666, per gli sms. Volevo leggere un sms che in soldoni mi chiede, replica sul discorso come garantire il consumatore quando va in un ristorante sul tartufo. Bene, io credo che basterebbe mettere la provenienza, poi non so quanto, però se uno mette tartufo bianco d'Alba, tartufo bianco d'Acqualagna, tartufo di San Pietro Avellana, questo se è il massimo della garanzia. Ricci, lei cosa ritiene come ristoratore? Quale garanzia deve dare un ristoratore a un signore che si siede e chiede un piatto in cui poi viene grattugiato sopra del tartufo? Guardi, io il consiglio che posso dare è che se di mangiare sempre tartufo fresco, anche se può essere meno, l'odore può essere di meno, perché ovviamente in molti ristoranti si tende ad utilizzare l'olio al tartufo L'olio al tartufo viene fatto chimicamente e quindi oltre a provocare disgusto, cioè si sente molto odore in più, molta profumazione, però non dà la qualità necessaria. Per quanto riguarda quello che diceva lei su provenienza, il tartufo di San Pietro Avellana, come quello di Alba, come quello di Acqualagna e via discorrendo, sono simili, anche perché noi abbiamo fatto anche adesso delle ricerche proprio chimiche sul tartufo e diciamo la qualità è uguale, anzi forse qualcosina in più, quindi non so mettere un'etichettatura se può dare una garanzia sulla provenienza. Bene, sentiamo Paolo da Torino, radioascoltatore. Buongiorno, buongiorno. Paolo. Buongiorno Paolo. Allora, senza nulla togliere all'eccezionalità del tartufo, che è veramente un prodotto della natura spettacolare, io faccio solo una piccola osservazione che forse è un po' fuori tema. Tutto questo grosso mercato del tartufo, parlo almeno per le mie zone, quindi la zona intorno a Alba, è un mercato al 99% in nero. Anche il mercato di anche il mercato ufficiale, quello dove magari nel mercato ufficiale no, ma credo che il mercato ufficiale sia la punta dell'iceberg sostanzialmente. Certo, beh sì, queste notizie, questi gossip girano da anni, ci sono stati anche varie situazioni legali, mi ricordo negli anni passati, quindi sicuramente è un prodotto che difficilmente si controlla, perché è un prodotto della terra e quindi abbastanza, anche non dico casuale, ma non è così diffuso, quindi questo può anche succedere e non so come si possa portare così delle soluzioni a questo punto. Credo di anni fa ci fossero state delle proposte parlamentari, ma non so come sono finite, perché non se n'è più parlato, però c'erano delle proposte parlamentari che erano fatte da politici di segni diversi. Tra l'altro, tra politici e segni diversi devo così segnalare un fatto di cronaca molto divertente: quanto divide il tartufo, e abbiamo sentito Alba e Acqualagna botte e risposta, ma devo dire che c'è stato anche una disfida a tavola tra due comuni di Pietralunga di centrosinistra e Sant'Angelo in Vado di centrodestra. Si sono sfidati i sindaci sul miglior tartufo e hanno avuto una giuria, e ancora una volta salomonicamente è stato dato il pari. Bene, continuiamo e abbiamo con noi ora, andiamo in Umbria e andiamo da Emanuele Musini, che è amministratore di Magnatum Club. Buongiorno Musini. Buongiorno. Io, se ben così ho capito, voi vendete tartufi online. Esatto, in verità noi nasciamo come distributore all'ingrosso di tartufi, però un paio di anni fa mi è venuto in mente che sarebbe stato anche bello invece raggiungere l'utente finale, quindi abbiamo creato questa interfaccia molto facile da navigare dove vendiamo tartufo sia nostro dell'Appennino, che invece quello che raccogliamo ad Alba, dato che proprio appunto come ingrosso noi raccogliamo in tutta Italia, da Piemonte fino giù in Molise. Ecco, che visto, tra l'altro è la regione che produce più tartufo, da certo, quanto mi risulta. No, anch'io sono convinto di questo come quantitativo. Volevo chiederle, ma lei appunto che si approvvigiona in più mercati, qual è la situazione oggi del prezzo? Perché lei magari ci può dare delle medie, visto che anche se all'ingrosso possiamo capire insomma. Beh, infatti, la cosa che di cui bisogna sempre parlare è appunto di della tassa, nel senso che per noi commercianti il prezzo, diciamo, al cavatore, al tartufaio, ha poco a che voler dire, perché poi noi ci dobbiamo autofatturare, quindi c'è automaticamente un aumento del 20% del prezzo. Però calcolando questo 20% del prezzo, il prodotto selezionato in questo momento è intorno ai 1.500 euro come media, dalla Toscana che è storicamente, e il Piemonte che sono storicamente più cari, fino giù al Molise dove invece si riesce a spendere qualcosa di meno. Comunque la media è intorno ai 1.500, che se poi viene venduto all'utente finale bisogna aggiungere un'altra IVA, un'ulteriore IVA del 20%, e quindi insomma andiamo a 1.800-2.000. Senta, lei ha detto autofatturarsi, perché? Perché il cavatore non fattura? No, non fattura, e lo Stato pretende da noi commercianti di autofatturarci il tartufo in entrata, come se l'avessimo trovato noi. A livello teorico il cavatore si dovrebbe autofatturare lui pagando questo 20%, però non succede mai. Storicamente il cavatore prende soldi in contanti, poi noi portiamo il nostro tartufo qui in azienda e ce li autofatturiamo per poi poterlo rivendere con fattura. Bene, abbiamo chiarito questo punto, secondo me molto importante. Volevo chiederle, voi dove spedite i tartufi? Lei ha detto appunto all'ingrosso, in giro per il mondo? Il mondo sì, noi abbiamo anche proprio come azienda una base negli Stati Uniti, che è un buon mercato per questo prodotto, anche se ultimamente anche lì hanno avuto la crisi, di problemi, e quindi anche lì diciamo che ormai i prezzi a cui si vende sono gli stessi che in Italia, quindi l'America non è più l'America da quel punto di vista, però è sicuramente un enorme mercato. Ma invece dal punto di vista del sito spediamo qui in Italia noi, e io sono stupito dal successo che ha avuto, la gente effettivamente si fida a comprare tartufo online, noi abbiamo tanti clienti che continuano a ricomprarlo, le stesse persone, e quindi questo vuol dire anche forse che la gente non sa bene dove cercare, dove trovarlo il tartufo. Bene, grazie, la ringrazio perché ci ha dato così alcune soluzioni ad alcune domande che erano state poste, specialmente sul discorso anche del nero. Grazie a Emanuele Musini di Magnatum Club e a Alberto Ricci, ristoratore al ristorante Perticone a San Pietro Avellana in provincia di Isernia. Ma sentiamo Francesco da Milano. Buongiorno Francesco, radioascoltatore. Buongiorno a voi. Volevo chiedere questo, siccome non sono un grande amante del tartufo, nel senso che non voglio dire che non riesco a capire fino in fondo questo amore sfrenato di alcuni patiti, ma probabilmente la trasmissione è sbagliata ovviamente per dire questo, ma la domanda era questa, no? Un costo così alto per un prodotto così dalla breve vita, no? Il fascino di questo prodotto così costoso dalla vita breve dove sta? Cioè, nel senso, se ho sentito le cifre dell'anno scorso che non sono più quelle di quest'anno, ma mi sembra che ci sia un rapporto o è morboso, ecco perché non riesco a capirlo, perché sennò davvero tutti stanno dicendo di utilizzarlo nel giro di una settimana, insomma qualche giorno, per cui mi domandavo... Lei ama qualche profumo in particolare? Sì, moltissimi, cioè, ma purtroppo non riesco a... diciamo che lo posso anche mangiare, non è che dico che non lo mangio. No, secondo me il tartufo non va mangiato. No, intendo dire il piatto, sì. Il piatto con il sapore del tartufo, no? Cioè, quindi vede, lei parla sempre di sapore, io invece insisto sul profumo. Il fatto fondamentale del tartufo è il profumo, quindi è qualcosa di molto particolare. Devo partire da lì. Che molti amano, no, bisogna partire e rimanere lì, perché poi il resto secondo me svanisce. Però le volevo chiedere, lei ama il caviale per caso? Poco. Quindi cos'è che ama tra i prodotti? Questo, guarda, mi faccio altre 50 domande, ma sono due prodotti che non amo, ripeto. C'è un prodotto, un cibo che lei in particolare... Dal prosciutto ai salumi in generale. Quindi ci sono dei prodotti e c'è molta gente che sicuramente i salumi non li ama, per esempio. Quindi, no, ma la mia non era una domanda, voglio dire, negativa. Era cercare di capire qual è il fascino di una cifra così alta per un prodotto che devi far fuori in pochissimo tempo, capito? Non era un... Guardi, Brillant Savarin lo chiamava il diamante, quindi il diamante si può capire... dal punto di vista dura per sempre, almeno della fisiologia del gusto. Bene, comunque sentiamo Livio da Milano, un altro radioascoltatore. Buongiorno Livio. Sì, buongiorno Davide, ho ascoltato con interesse le vostre domande, le risposte, però da consumatore io ho un problema, sono allergico ai funghi, posso mangiare il tartufo? Ma guardi, sono due cose completamente diverse, funghi e tartufi, quindi io credo che non ho mai sentito nessuno che, almeno che io conosca, che è allergico ai tartufi. Comunque se c'è qualche medico in ascolto prego di chiamare sicuramente per darci una risposta a questo, non credo, però tutto può essere. Bene, abbiamo con noi Cristiano Savini, Savini Tartufi, andiamo in Toscana. E allora voglio sentire da Savini il prezzo, il fixing in Toscana, in questo momento di alcune aree importanti, San Miniato ed altre, qual è il prezzo che gira? Ciao, buongiorno Davide. Buongiorno. Niente, il prezzo da noi è intorno ai 1200 euro al chilo, sono, diciamo, per le pezzature piccole. Quello è il nostro... Pezzature piccole, prezzo. Quindi quelle piccolissime, oppure le medie, le medie quanto vanno? Le medie, il problema quest'anno è che è vero che c'è tanta quantità, ma per fare delle pezzature, delle buone pezzature è veramente difficile, c'è tanto scarto, tanto spreco, e quindi si può salire intorno ai 1500 euro massimo. Bene, rimani con noi Cristiano, poi torniamo. Ora sentiamo Aldo dalla provincia di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Prego Aldo. Buongiorno. Buongiorno, io volevo fare una domanda. Oltre alle indicazioni sull'origine, sulla provenienza dei tartufi, visto che, come avete detto un paio di volte, il bouquet del tartufo è effimero, quindi è importante che venga consumato pochissimi giorni dopo la raccolta, volevo capire com'è possibile avere, sia quando si va al ristorante, sia quando si acquista, talvolta addirittura online, come sentivo prima, un'indicazione su quanti giorni sono passati dalla raccolta, perché mi pare un elemento molto importante, no? Per valutare la qualità del prodotto. Lei ha perfettamente ragione, credo che questa scheda sicuramente sia molto difficile, ma lo chiedo a un grande trifolao della zona dell'Albese. Buongiorno a Paolo Cerutti. Buongiorno Davide. Allora Cerutti, hai sentito questa domanda? Cioè la durata, ecco, la durata l'abbiamo già chiesto prima, è vero, cioè i ristoranti non possono mettere da A, ma secondo te 7 giorni, se in 7 giorni quel profumo inebriante può rimanere ancora? Certamente sì, dipende da come è stato trovato il tartufo, se era ancora un po' acerbo o se era già proprio maturo. Un tartufo maturo ha una vita di 3, 4, 5 giorni, io parlo di vita con al top delle sue qualità. Poi dopo... e comincia a scendere e si può mantenere per una decina di giorni. Detto questo, mangiarlo in fretta è sempre la soluzione migliore in assoluto. Ci sono dei tartufi che addirittura io, prima di dare al cliente, li tengo un po' io, perché noi abbiamo nell'Albese ormai la ricerca è veramente esasperata dei cani molto molto bravi, che a volte li trovano che profumano magari anche solo un po' di muschio, non sono ancora arrivati alla maturazione completa, e quindi a volte bisogna aspettare un pochettino che maturino. Lì sta proprio il cliente deve scegliere un fornitore affidabile, nel senso che il fornitore deve confessare al cliente, chiedere quando lo mangerai e dare il tartufo giusto per il momento giusto. Se mi chiedono un tartufo per questa sera, glielo darò maturo; se me lo chiedono per metà settimana, gli darò uno che diventerà magari pronto a metà settimana. Questo sta nell'abilità di chi vende anche, di poter dare un tartufo di qualità e della durata giusta. Noi compriamo tartufi anche, oltre ad andare per tartufi, e andiamo 3 volte a settimana dai nostri fornitori, perché per avere sempre un prodotto fresco nelle mani. Ho capito, quindi se un ristoratore, diciamo, è molto professionale, rispetta questi tempi, ma magari l'anno scorso con la crisi imperante, i prezzi così alti, probabilmente non ci badava molto, perché quello che capitava poi serviva in qualsiasi momento. Bene, speriamo che quest'anno con questi prezzi si rispetti questa regola. Sentiamo Roberto da Varese, un altro radioascoltatore. Buongiorno Roberto. Sì, buongiorno. Ho sentito che avete parlato di olio tartufato. Sì. Però io utilizzo il burro al tartufo. Vorrei che qualche esperto mi spiegasse, cioè la differenza è enorme. Beh certo, certo, la differenza è enorme, perché come abbiamo sentito prima, l'olio tartufato ha un certo tipo di produzione, invece sicuramente il burro tartufato molte volte è fatto direttamente da ristoratore o da altro, aggiungendo del tartufo vero, cioè quello integro e non l'odore di tartufo. Savini, è così? Sì, in realtà il burro al tartufo è una delle ricette anche più antiche sul prodotto lavorato, anche perché era il vecchio sistema con cui si conservava il tartufo quando le annate erano abbondanti di tartufo. E quindi sicuramente, anche se purtroppo poi in commercio ci sono anche delle situazioni dove magari c'è anche olio al tartufo dentro al burro. Noi per esempio facciamo un burro al tartufo con una ricetta storica che si faceva in casa mia, quando appunto il tartufo era molto, e quindi si preferiva conservarlo nel tempo. Quindi diciamo, facciamo attenzione che non ci sia olio tartufato, perché sicuramente è molto preferibile che non ci sia l'olio tartufato nel burro. Voglio chiedere a Paolo Cerutti, abbiamo distinto molto tra piccoli tartufi e diciamo medi tartufi. Cerutti, vogliamo dare delle dimensioni? Quando si parla di piccolo tartufo, di medio tartufo, quali sono il peso? Qual è? Ma diciamo che piccoli tartufi, parliamo di tartufi intorno ai 10 grammi fino ai 20, ecco, medio tartufo è già un tartufo da 20 grammi a 40, è già un bel tartufo. Io, se fossi al posto di un consumatore, non starei tanto a guardare la dimensione, piuttosto alla qualità del profumo, del tartufo. Partiamo da questo presupposto: se il cane trova un tartufo piccolo è perché è profumato, ci sono anche altri fattori che possono portare alla scelta di un tartufo piccolo. Se noi compriamo per esempio un tartufo di 100 grammi, se siamo fortunati che è buonissimo, va bene, ma se per caso siamo sfortunati che il tartufo non è proprio molto buono, cosa facciamo? Se invece noi ne abbiamo comprati 5 e sono di una qualità buona, può anche darsi che nei 5 di 20 grammi ce ne sia uno che non sia granché, ma nella totalità abbiamo comunque un buon risultato, perché che se ne dica di provenienza o non provenienza, i tartufi non sono tutti uguali, il gusto dipende dalla pianta, dal mix che crea col terreno, dalle altre piante che anche se non danno tartufi creano un habitat sottoterra sempre diverso, e tartufi trovati a mezzo metro di distanza l'uno dall'altro a volte hanno profumi completamente certo. diversi, quindi secondo me bisogna differenziare l'acquisto anche aumentando il numero di pezzi e con dei pezzi più piccoli. Poi certo che se uno deve fare un regalo, il fatto di avere un bel tartufo vuol dire che cioè, ha fatto fatica a trovarlo, beh, costa di più, è una cosa un po' più rara, questo sì, ma quando uno vuole mangiarli... Bene. Io sceglierei quelli un po' più piccoli. Bene, grazie, grazie a Paolo Cerutti. Stiamo concludendo, devo dire sì, un radioascoltatore mi tira le orecchie, mi sono dimenticato del tartufo della Valle del Bidente di Cusercole e dintorni dove io sono nato. Beh, chiedo venia, che ringrazio in regia Peter Bescapè, in redazione Anita Panizza. Un caro saluto da Davide Paolini.